Noi ieri sera abbiamo avuto un'esperienza anche, diciamo, di contrasto, nel senso che sì. Il barista ci ha detto: ma perché fate questa musica? Voi state gettando merda sopra il San Lorenzo, così ci mettono. Quindi lui, vabbè, però probabilmente era un po' arrabbiato perché l'avevano chiamato quelli di sopra. Avete notato anche in altre situazioni una ostilità da parte del... Un'ostilità nel senso, non so, delle perplessità. Le perplessità possono rientrare magari nella, come dire, nella sfera anche delle idee, delle percezioni delle singole persone. Quindi al di là di quello, però, c'è da dire che la musica può avere un impatto anche proprio sonoro e visivo maggiore. Quindi è chiaro che può aver suscitato una risposta di questo tipo di chi vive lì. Poi San Lorenzo è un quartiere particolare, nel senso, è spesso sottoposto, no, ad una violenza di tanti tipi, e quindi le persone sono anche un po' sensibili per quello. C'è da dire che a me ha colpito anche, per me è stata in parte la forza di questa cosa e la bellezza, il fatto che pochi metri più in là, sapete meglio di me, che c'era il Jazz Festival, che per quanto nascesse da una realtà comunque indipendente, era però un qualcosa già di più organizzato, con, immagino, dei paletti, una struttura, insomma, più forte. E lì accanto c'eravate voi, che invece eravate lì in maniera veramente estemporanea ad interagire con chi passava, con quello che succedeva in quel momento. Quindi a me è piaciuto anche in realtà questo contrasto, dire: là c'è questa cosa, qua ci siamo noi o non ci siamo noi, o c'è quello che sta succedendo. Sure. To archive. Right. And learn to the recording. Right. Like from the recording. Oh, true. In that sense. Questo è stato bellissimo perché, insomma, i più grandi musicisti in realtà sono gli uccelli, no? E lì ce n'erano tanti. Gli uccelli, c'è l'abitudine, l'orecchio quasi li esclude, no? Perché li considera. Mentre quando abbiamo registrato, io riconoscevo i vari uccelli, no, che sentivo lì, perché diventano anche loro parte. Ecco che la musica viene anche da fuori, non viene più solo da noi, no, che suoniamo, ma c'è tutto l'ambiente, insomma, c'erano dei grandi maestri lì che stavano suonando. Vedi, in natura ci sono molti più partecipanti attivi alla cosa. A volte bisogna solo saperli vedere, no? Sì, lasciare uno spazio. Me si basa tutto sul ritmo. Quindi sei più un fan della strega, no? Ma adesso potrebbe essere che c'è un'analogia. Sì. Cioè, come dire, il fulcro dove ruota tutto il ritmo, no? Tu dici, ma se la si prendesse più con ironia queste robe qua, boh? Magari sì, ma io non voglio essere tipo solo da una parte, cioè che non mi convinci, no, lo riconosco che non è ha una sua idea. Riconosco di essere un bacchettone. Scusate, volete un caffè? Che qua c'è un caffè che sta per Marcolino arrivare. Sì, Marcolino sì. Ma che cazzo? L'idea anche di questo festival è, anziché imporre dall'alto su un territorio un qualcosa di preconfezionato, è invece mettersi ad ascoltare, recepire una serie di cose e creare dal basso. Tant'è vero che poi ci sono avuti un po' di mesi, appunto, la cosa è nata con me, poi è subentrata Vania, la ragazza che ha appunto questa galleria, e quindi le cose hanno preso forma. La tendenza anche che è successa ieri, che si ingaggi un po' l'ensemble, tende a ingaggiare una prova di forza con l'ambiente, soprattutto se sei in città. Certo. Mentre con la natura ovviamente questo non ha senso, perché la natura è molto più forte. Sì, ha vinto in partenza. Quindi già, diciamo, la prova di forza non ha senso. Sì. E quindi c'è di solito più disponibilità all'ascolto, almeno per quanto a creare un'interazione, c'è più rispetto istintivo, anche di sopravvivenza verso la natura, no? C'è più rispetto, quindi c'è più ascolto in genere. Tutto si basa sul senso di colpa del principe. Gesti razionali, quindi appunto lanciare un tamburello, che ovviamente sono molto meno forti di qualsiasi altro gesto invece che viene da sé, è chiaro. Scusate, volete un caffè? Che qua c'è un caffè che sta... Sì, perché noi siamo interessati, diciamo, siamo alla ricerca dell'evento sonoro, che poi è stato formalizzato e strutturato nella musica, che può essere occidentale, indiano, sono tutte forme, formalizzazioni, no, molto interessanti, però l'evento sonoro è come lo è la natura, è al di fuori di queste formalizzazioni, quindi... Intanto spogliarci delle formalizzazioni dovrebbe consentirci di avvicinarci di più al suono come evento che suona da fuori, no? Sì. È il discorso un po' dell'arte contemporanea. Un po' meno rispetto ai tempi, nei nostri tempi. Anche se la stessa avanguardia, anche pittura, così poi ha demolito delle formalizzazioni per farne altro. Ecco, quello, certo, poi, esatto, può essere, quello può essere un rischio, anche un po' un paradosso. Sì. Però è lì che poi toccherà ad altre persone porre altri quesiti, no? Sì. Per creare altre fratture. L'armadio, com'è andata? L'ho smontato, adesso non so dove potrei bruciarlo. In casa? Quando vengono la polizia? Quando viene la polizia? Sta facendo? Sto bruciando l'armadio. Non mi serve più, non mi serve più, ragazzi. Era degli inquilini di prima. Io ho occupato la casa, cazzo me ne faccio dei loro mobili, li devo bruciare. Poi spargo le ceneri in giardino. C'è un senso, il lanciare il tamburello in mezzo è come dire la musica di tutti, nel senso, mi tolgo questo ruolo di musicista, sono musicista, sono una persona che vive la musica e che la esprime, come lo faccio io lo può fare chiunque, poi c'è chi studia, chi approfondisce, chi ci dedica più tempo, però è una cosa che potenzialmente fa parte di tutti. E quindi così è veramente una cosa condivisa, altrimenti la musica diventa, crea anche un po' quella distanza tra chi la fa e chi la ascolta e basta. Soprattutto questa cosa del silenzio, perché secondo me ci sono due momenti, anzi due ruoli in un certo senso che poi che assumi nell'improvvisazione, che è quella che o continui, quindi non lasci quello spazio di silenzio, insomma, e quindi vai e ti fai base per gli altri che possano relazionarsi, quindi continui e quindi la gente si relaziona a quello che stai dicendo, oppure fai esattamente quello che stanno facendo loro, gli altri, quindi dai, non fai una base ma fai degli sprazzi, no? A me succede così, insomma. Scusate, volete un caffè? Questa distinzione credo che sia molto importante, cioè esecutore o musicista. Esecutore o musicista. Sono due gesti, secondo me, molto diversi. Perché poi probabilmente per chi in quel momento sta performando, lui vive un'esperienza interiore, sì, e quindi quello che poi arriva esteriormente a chi lo vede, sono quasi due campi diversi, che a volte non trovano neanche una relazione linguistica, cioè se esprime in parole diventa un po' Se si sapesse descrivere bene con le parole non si vorrebbe la performance. È come un po' la musica, come fai a descrivere la musica in parole, cioè tu senti che le cose, sia che tu la stia facendo che tu la stia ricevendo, però poi nel momento in cui la verbalizzi già diventa una cosa diversa, altra. È proprio l'esempio del sogno, mi sembra più giusto, perché quando cerchi di raccontare il sogno è sempre la percezione molto chiara che quello che racconti è solo una parte di quello che hai vissuto sognando. Sì. E questa è un po' secondo me la forza dell'arte, non so che in senso lato definiamo arte, che va a toccare comunque dei canali che non sono solo razionali, ovviamente, se no sarebbe un'altra cosa, sarebbe arte. E quindi poi riproporla sul piano razionale non è sempre così immediato, cioè, è sempre un qualcosa. Quanto? 300. 300, vai. Roberto! Un momento. Che quindi, ecco, per esempio, quando noi sentiamo una cosa così, ci dà il senso di angoscia, sì. No? Ma chi l'ha detto che deve essere certo, così? Certo, certo, certo. Ci abbiamo messo 1500 anni per riuscire a inglobare questa cosa, e ora, invece... Portare veramente la musica, anche l'uomo, portarlo in natura senza che debba antropizzare poi la natura, no? Quindi esatto, in un modo che non lasci impronta, secondo me, in qualche modo. Beh, ma si può pensare anche come gioco, perché pensarlo come troppo seria la cosa? È un gioco che per comodità, ma anche per gioco proprio. No, ma infatti dico, a me che piace, mi piace, cioè, visto che lasciarsi andare non è un gioco. Ma potrebbe esserlo. No, piuttosto, i giochi non sono lasciarsi andare, al contrario, è mettersi in assetto e giocare. Cioè, tu quando giochi a nascondino, per esempio, no? Non è che dici... Agenzia immobiliare. Mi vendevano una casa. Scusate, volete un caffè? Che qua c'è un caffè che sta per Marcolino arrivare. Io sì. Sì, Marcolino sì. Ma che cazzo? Che tu mi hai fatto prima, adesso mi viene in mente qualcuno, in particolare penso a una vecchietta che aveva una faccia un po' sconcertata e quindi le ho chiesto, ma ti è piaciuto? No, no, ma questo cos'è? Non è musica. E questo non è musica, in realtà ti dà secondo me la possibilità di interrogarti e quindi non dare per scontato cos'è musica e cosa non è musica, ma interrogarti e chiedere che cos'è la musica. È come spesso forse questa domanda è più ricorrente nell'arte, soprattutto con l'arte contemporanea, che a volte provoca molto. Con la musica si fa meno, però la musica non può essere, non deve essere solo quella, come dire, classica, no? L'idea classica di musica a cui siamo abituati. Certo, certo. E quindi questo posto è una domanda, come dire, finché ci sono domande poste, secondo me c'è una vitalità. Questo qui no, perché ha rotto i coglioni mezz'ora. Fuori dalle domande.